poi passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. Viva l'Italia, caro Parenzo! Viva l'Italia bloccata! Viva l'Italia tutta bloccata dagli studenti! Viva l'Italia dello sciopero dei miliardari del calcio! Anche loro hanno annunciato lo sciopero. Lo sciopero per il 12 dicembre. Gli studenti scioperano contro non so che cosa, contro l'università, contro, per come va l'università, contro la riforma universitaria. L'Italia a metà dovere. I calciatori contro cose complicate. Comunque scioperano anche i miliardari. L'Italia sulla luna. I milionari. Questo è fantastico. Questa è l'Italia, capito? Capito, qui sono. Piove che giove pluvio la manda. Allora, il centro di Roma è spettrale. Le camionette della polizia circondano il palazzo. Ti dico subito. Che il segretario del Partito Democratico Bersani e uno dei principali esponenti dell'opposizione, il segretario, presidente di Sinistra Ecologia e Libertà, nonché presidente della Regione Puglia Vendola, nonché candidato alla guida del centro-sinistra, sto parlando di Nicola Vendola naturalmente, Nichi Vendola, entrambi sostengono che la colpa degli incidenti di oggi in tutta Italia, occupazioni eccetera eccetera, è della polizia, anzi no, è del governo. Ti leggo queste semplici frasi, mi sembra di vivere in una situazione surreale. Bersani: mi pare che nella stragrande maggioranza studenti e ricercatori si sono mossi in modo pacifico, ha impressionato la città militarizzata, mai vista Roma così. E se si è arrivati a questa tensione è per irresponsabilità del governo, che ha perso la testa e la presa sui problemi del paese. Dunque, se c'è qualcuno che vuole entrare in un posto dove non bisogna entrare, in una zona dove non bisogna entrare perché così ha deciso l'ordine pubblico, se c'è qualcuno che assalta le camionette, se c'è qualcuno che tira le uova, se c'è qualcuno che si arma con i caschi, non è colpa di questi violenti, che poi non sono così minoranza, diciamo la verità. Comunque, ma la colpa è del governo, la colpa è di magari di qualche poliziotto, eccetera. E non è l'unica cosa. Vendola. È stata una gestione nervosa dell'ordine pubblico. Ma non so, ma come fai a dire una gestione nervosa dell'ordine pubblico? Come fai a dire una gestione nervosa? Ma io adesso sono nella piazza del Parlamento. No, ti leggo Vendola prima. Due checkpoint. Giusto, ma è normale che sia così. Ma ti pare normale che tutto. Ma il conto qui sulla piazza del Parlamento: 12 camionette della polizia. Normale, ma non è che è una cosa che decide la polizia. Se quelli vogliono dare l'assalto al Parlamento, vogliono entrare in Parlamento. Adesso questo voglio dire. L'assalto. Ci sarà qualcuno, certo, ci sono degli estremisti che vogliono provocare incidenti. E dunque ci sono 12-20. A me che ci siano 12 o 20 camionette della polizia, qual è il problema? Perché la città deve essere considerata militarizzata? Chi lo sostiene? Chi l'ha detto che la città è militarizzata? Ci sono le forze dell'ordine, non è che sono degli estranei, non è che sono i militari di Pinocetto così che ti vogliono manganellare questo e portare dentro lo stadio. A me mi rassicura. A me rassicura il fatto la che ci parte sono di questi sono degli ricercatori che guadagnano benissimo, ma questi al mese un po' incazzati, ma mica vengono incazzati, ma nessuno li vuole manganellare questi qua, nessuno li vuole portare dentro le segrete del governo. I feriti ci sono perché qualche imbecille cerca di forzare i blocchi. Vendola: una tenaglia militare ha assediato la capitale, un paesaggio lunare, un'immagine che ricorda altre epoche e altre capitali. Roma blindata, sequestrata dalle forze dell'ordine come se dovesse essere invasa da un esercito di brigatisti. Senti, una gestione criminale dell'ordine pubblico che finisce per alimentare le spinte estremistiche. Dunque le spinte estremistiche non sono colpa degli estremisti, ma sono colpa della polizia e della gestione dell'ordine criminale. Questo è un po' assurdo. Vendola, quello che dovrebbe guidare il paese. Cioè, quello che dovrebbe guidare, che si propone come guida del paese. C'è ancora qualcosa, eh? Di fronte alla crudeltà sociale delle politiche di Tremonti e di Berlusconi non c'è neanche il diritto di ribellarsi. A me pare che ci sia tutto il diritto, ci sono manifestazioni in tutta Italia, il diritto non è negato a nessuno. Senti, è un popolo della libertà, beh, questa è una polemica politica, un po' particolare quello evocato dal centrodestra, perché la libertà di dissentire incontra come risposta quasi i carri armati. Vabbè, carri armati, perché non abbiamo visto. Vendola, è così, è vendola. Però c'è anche Carlo Rossella, vi faccio sentire Carlo Rossella. Perché, per carità, adesso sarà pure vero che è un funzionario, la famosa Dibbo, un funzionario non particolarmente importante, anche se guida adesso la missione americana presso l'Unione Europea, quella che redigeva questi rapporti pubblicati da WikiLeaks. Però secondo Rossella, e lui dice di saperlo, questa Dibble leggeva molto attentamente la mattina Repubblica e poi faceva i suoi rapporti per il Dipartimento di Stato. Andava bene. Queste considerazioni di Elizabeth Dibble, che era la numero due dell'ambasciata americana, la quale ha preso i giornali italiani di sinistra, li ha copiati, lei come primo giornale al mattino leggeva Repubblica. Questo lo sai tu, io non lo sapevo, ma io lo so, io va bene, lo posso dire una tua informazione. Ma scusa, ma come fa Rossella a sapere che Elizabeth Dibble, hai sentito poi la pronuncia, no? Elizabeth Dibble. Pronuncia di Miami, quella cercava, che cercava la pronuncia perfetta, non so se ci sia riuscito. Come fa a sapere che la mattina leggeva Repubblica? Beh, certo, ci sono i gossip anche tra gli esperti giornale, diplomatici. Quella. Beh, non solo del giornale. Sì, la tesi di molti esponenti del centrodestra, per cui questa Dibble ritagliava i giornali. Ma io non posso immaginare, questa è una polemica politica che ci può stare, ma non posso immaginare che una funzionaria dell'ambasciata americana abbia come fonti Repubblica. Non esaltiamo troppo i funzionari delle ambasciate, non è che proprio, non è che sono tutti degli specialisti, degli analisti sopraffini. Ho capito, ma una grande potenza come quella degli Stati Uniti non penso che si basa su un report del Fatto Quotidiano, sarebbe veramente, come dire, ridicolo, no? Sì, no, certo. Quindi meritano il declino che hanno, se davvero fosse così. Meritano il declino dell'impero americano, allora, se si basano su questo. Saviano, salire sui tetti sveglia le coscienze. Che meraviglia. Una storia che parte dai ragazzi che stanno occupando i monumenti italiani. La Torre di Pisa, il Colosseo a Roma, la Mole Antonelliana a Torino, la Basilica di Sant'Antonio a Padova. L'obiettivo è svegliare il paese da più di 10 anni di torpore. Un torpore che ha fatto perdere l'unica possibilità del talento italiano, cioè investire in cultura. Viva l'Italia! Nuova rubrica, non è una rubrica hard, non vi preoccupate. Il bocchino del giorno è naturalmente riferito a Italo Bocchino, per carità. Via. Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta. Bocchino con quel cognome dovrebbe essere più prudente. Allora, tu hai capito cosa vogliono fare i finiani intanto? Perché alcuni tentennano sulla fiducia, ci potrebbe essere anche un'astensione, che sarebbe francamente incomprensibile, perché Fini ha detto chiaramente che Berlusconi se ne deve andare. Lo stesso Bocchino dice una volta sì e l'altra pure che Berlusconi non avrà la fiducia, deve essere sfiduciato, si deve dimettere, eccetera, eccetera. Bocchino è il capo delle ipotesi. Delle ipotesi, però certamente diciamo, non sembra particolarmente compatto il gruppo, non sembrano particolarmente decisi sulla sfiducia a Berlusconi. C'è una situazione un po' così caotica anche lì. Bocchino comunque oggi, anzi ieri, dice Berlusconi 14 non avrà la fiducia. Dicono che voi di Futuro Libertà vi state spaccando, è vero? Berlusconi l'ha detto già 3 volte precedentemente, non è accaduto, quindi non capisco perché dovrebbe accadere. Quindi il 14 non avrà la fiducia. L'unica cosa certa è che i parlamentari di Futuro Libertà, secondo me no, i parlamentari di Futuro Libertà saranno compatti il voto del 14. È sempre Bocchino onnipresente come al solito su qualsiasi televisione da quando ha rotto con Berlusconi, intervistatissimo da radio, televisioni, giornali di continuo. Sostiene che i finiani dicono le stesse cose che Bossi sosteneva nel 94. Devo dire che Bossi diceva le cose peggiori, le più turpi di Berlusconi, come ieri ci ha ricordato un ascoltatore nel 94. Se davvero i finiani dicessero le stesse cose dei leghisti del 94, forse la situazione sarebbe già precipitata. Via. Bossi diceva delle cose che sono le stesse che con toni diversi diciamo noi oggi, e quindi il problema è proprio nel fatto che con Berlusconi è difficile avere la garanzia che si mantengano i patti nel corso dell'alleanza. Vabbè, voglio offrirti una chicca, per carità, poi i riferimenti storici sono sempre sbagliati, erano altre epoche, quello che vuoi, però senti questo Fini, questo Fini del 1994, in una situazione che non era analoga perché c'era un'altra legge elettorale, eccetera, eccetera, però insomma si stava per sfaldare, era caduto, stava cadendo il governo Berlusconi, in un intervento alla Camera dei Deputati del 21 dicembre 1994. Era un Fini naturalmente molto diverso da quello di adesso, il quale parla esplicitamente di tradimento e non solo, sentiremo più avanti. Fini. Non è una crisi come le altre, anche e soprattutto perché il governo non si sente sconfitto, il governo si sente tradito. Questo è un governo che vede interrotto bruscamente il suo cammino unicamente perché una componente indispensabile della maggioranza ritiene di venir meno ad un impegno. Fini 94, 21 dicembre, tradimento, poi parlerà di elezioni, dopo di noi ci sono solo le elezioni, in realtà non ci furono perché ci fu il governo Dini, come sapete. Abbiamo il traffico, poi torniamo con moltissimi ascoltatori già in onda all'800240024. Com'è la situazione a Roma? Tutto bloccato, un inferno oggi, no? Tutto completamente bloccato, pioggia, io sono davanti alla Camera, è appena passato Fassino, sì. il quale è il candidato ufficiale del Partito Democratico, ci saranno le primarie, pare, al sindaco a Torino, sì. Adesso vediamo di beccarlo se riesce, perché qui alle 19 è prevista le dichiarazioni in aula, alle 20 le votazioni, 20 e 30 escono tutti, quindi noi siamo qui sotto la pioggia a combattere come dei leoni. Quanto sei messo per arrivare dalla stazione fino al centro? 45 minuti a piedi. Beh, insomma, manco da a piedi con la pioggia. No, no, i taxi non c'erano, tutto fermo, tutto bloccato, tutto finito, tutto bloccato. Prima del traffico, a me la giornata di oggi mi ha ricordato una cosa: mandatemi sordi. Ah, povero Monicelli, mandatemi sordi. Lavoratori. Capito, questo. Gli studenti questo hanno fatto i lavoratori. Di nuovo, cosa hanno fatto gli studenti oggi ai lavoratori? Lavoratori! Traffico. Grande provocazione, ma... Traffico. Viva l'Italia! L'Italia che... Eccoci, 18:48, 800240024. Marco da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Parenzo. Allora io volevo intervenire sulla questione degli studenti prima di tutto, per prenderla come esempio, perché come sa ci sono diverse appunto manifestazioni, no? Nell'ultimo periodo sì, gli agricoltori in Sardegna, poi in mezzo ci sono state alluvioni che hanno causato altre manifestazioni, eccetera, e poi ci sono gli studenti. Però vorrei solo dire una cosa, quando lei dice questi devono andare, sono nulla facenti, qui e là. Ascolti Cruciani, lei ha mai provato a risolvere un qualsiasi problema di vita quotidiana nei modi, come dire, standard, scrivendo lettere, non so? Beh, francamente sì, Marco. A parte che questi non sono. Peccato che non ci sia. A parte che questi. Ma veramente io qualche volta ci sono riuscito, ma al di là di. Che devo fare? Sarò stato più fortunato. Sicuramente. Marco, non ho capito però qual è il punto. Qui non si tratta di problemi di vita quotidiana, mi scusi, non c'entra niente la vita quotidiana qui. Ma mi scusi, il punto è questo, che bisognerebbe arrivare a una situazione ancora di più caotica, perché soltanto... Ancora più caotica, viva il caos, certo. Viva il caos! Certo, e viva il caos, scusi, sì, ma perché? Perché non blocchiamo tutto il paese per 10 giorni? Ma perché? Perché solo un giorno? Certo, ma non c'è altra via. Ma no, certo, non c'è altra via, ma certamente, per carità. Secondo me no, almeno. No, perché per fare... Con i mezzi normali, scusi un attimo, non c'è altra via per fare cosa, scusi, caro Marco, per fare cosa? Per cambiare cosa, in che modo? Per cambiare cosa e in che modo innanzitutto? Perché poi uno dice per cambiare cosa e in che modo? Per cambiare la classe dirigente. La classe dirigente. Ah, ecco, siamo arrivati al punto. Certo, questa classe dirigente. E questi banditi. E questi banditi bisogna cambiarli, questi manigoldi. Bisogna cacciarli via, bisogna cacciarli via. Pensi come sono stato, io sono andato anche all'assemblea di partito per cercare di fare le. Certo, sai cosa è successo? Lì io volevo parlare di problemi, di cose. Sa cosa ho trovato? Sì. Non le dico neanche di che partito perché non fa differenza, no, però ho trovato della gente che discuteva su chi sarebbe stato meglio piazzare in quella poltrona piuttosto che certamente, in un'altra. Certo, ma questo può accadere certamente, ma scusi, mi domando, perché lei subito ha detto cosa bisogna fare? Bisogna il caos per rimpiazzare questa classe dirigente, sostanzialmente lei ha detto questo. Scusi, ma tutto questo con la riforma dell'università cosa c'entra? Cosa c'entra? C'entra perché fa parte di... Non c'entra niente. Allora, io questo dico, le manifestazioni che in giro per l'Italia sono un pretesto. L'obiettivo è il governo potrebbe essere anche il governo di centrosinistra, se c'è il centrosinistra. In questo caso il governo Berlusconi. L'obiettivo è il governo Berlusconi. Questo è l'obiettivo di queste manifestazioni. È così. Ma non c'è niente. Perché uno deve girare intorno ad una cosa molto semplice? L'unico vero obiettivo delle manifestazioni è manifestare contro il governo. Punto. Non c'è altro. Allora le concludo in questo modo. Che se invece. Scusi, allora, lei ha letto oggi, per carità, non è obbligatorio. Ha letto oggi l'articolo di Francesco Giovazzi sulla prima pagina del Corriere della Sera, per carità, non è mica la Bibbia, non è obbligatorio. Sì, l'ho letto l'articolo. L'ha letto, no? Sì, l'ha letto. Sì. Basta solo questo. Dovrebbero distribuire, sa come facevano un tempo durante la guerra, non solo durante la guerra, dall'alto con gli aerei, no? I volantini, così dall'alto che calano giù durante le manifestazioni, a migliaia di copie, a migliaia di esemplari, insomma. Volevo solo dirle questo, allora, se dice così. Mi che dica. Se, quando ci sono quelli dell'opposizione che vanno lì a manifestare, quella lì è tutta una facciata, perché quella l'opposizione non è vera, perché quella è una Invece politica, secondo lei la vera opposizione qual è? Grillo, qual è? Ma non c'è. Perché non possono farla. Allora che non ho capito, Marco, cosa propone lei? Non lo so, l'azzeramento di tutto, Pol Pot, che propone lei? Allora io conosco Pol Pot, che propone Pol Pot? Che propone? Io conosco diversi politici che fanno le cose diversi per bene. Per esempio? Diversi politici e non riescono a fare quello che c'è da fare, non perché la maggior parte... Ho capito, che bisogna fare allora? Scusi Marco, a chi bisogna affidarsi? Bisogna cambiare il sistema in toto. È l'unica soluzione. Non ho capito niente, però va bene lo stesso. Uno quando dice bisogna cambiare il sistema in toto, va bene Parenzo, va bene pure dire bisogna cambiare il sistema in toto. No, ma è tutto legittimo. Bisogna dire una cosa. Le manifestazioni anche degli studenti e dei precari dell'università sono manifestazioni legittime. In Francia qualche anno fa bloccarono addirittura per 20 giorni i mezzi pubblici e c'erano i francesi che andavano al lavoro con le biciclette. Sì. Altra cosa è la violenza. Cioè, che il governo non ha cambiato di una virgola la riforma delle pensioni. Ma non c'è dubbio, ma anche in Inghilterra i minatori si rivoltarono alla Thatcher quando prese quelle misure impopolari. Non è che stavano lì a dire vabbè, c'è la Thatcher, che famo, non protestiamo. Ma qui non c'è nessun provvedimento thatcheriano, quello è il punto fondamentale. Non è che c'è un provvedimento. Su questo possiamo discutere, però la rabbia del corpo insegnante, la i rabbia del corpo insegnante, tutto quello che vuoi. Hai detto una parola giusta. Sì, ma certo, ci sta tutto, per carità. Infatti, di questo discutiamo. Non arrivare ai bisogni il di punto, violenza. Il punto fondamentale è che queste che sono in corso in tutta Italia sono delle grandi manifestazioni di conservazione, della conservazione dello status quo. Questa è la mia valutazione. Diceva delle cose concrete oggi. Chi? Che questa riforma Gemini non ha fatto, tipo l'abolizione del valore legale del titolo di studio. Ma per carità, ma fatto. Magari come sfondi una porta quindi aperta. Sono tutte riformicchie incompiute, capito? Tutte cose. E quindi la gente è incazzata, mette da una parte questo, dall'altra il governo e la rabbia contro Berlusconi cattivo, tutto quello che vuoi e si blocca un paese. Bene, Gianfranco da Modena, sentiamo. Buonasera. Prego, dica. Buonasera, Cruciani. Guardi, io ascolto abbastanza di sovente la sua trasmissione. Sì. Come ho già detto con un signore che ha interpellato prima. Sì, lei si deve sbrigare perché abbiamo 30 secondi, Gianfranco, poi casomai la richiamiamo, non c'è problema. Allora, io posso dire che sono indignato dalla sua conduzione. Benissimo, sai quanta gente c'è indignata? Io credo che lei debba fare il conduttore e non l'opinionista. Questo lo vado a dire a qualcun altro, io faccio quello che mi pare. Abbia pazienza. Insomma, io credo che lei lavori dentro a una radio che non sia di sua proprietà. Senta, io esprimo le mie opinioni, per cui se a lei non stanno bene ci chiama e me le contesta. Se lei mi vuole proibire di esprimere le mie opinioni, ha sbagliato indirizzo, insomma. Si rivolga a qualcun altro. Guardi, siccome che io l'ascolto abbastanza di sovente. Beh, io sono molto contento di questo, però lei se ascolta di sovente si dovrebbe rendere conto che io esprimo le mie opinioni. Lei può essere può dissentire dalla mia opinione, ma non mi può impedire di esprimerla. Abbia pazienza. La richiamo dopo il giornale radio delle 19. Torniamo qui, caro Parenzo, bloccato a Roma dalle manifestazioni. D'altra parte non è il solo. È così. Ci siamo un po' sfogati prima con, dopo l'intervento di qualche ascoltatore, ma insomma fa parte delle arrabbiature, delle prese di posizione di questi giorni, di queste ore. Sono le 19:19, ma andiamo, che dici, in tutta calma, in tutta tranquillità, vogliamo mandare questi titoli del TG3, vediamo come il TG3 riassume la giornata, che dici? E perché no? E perché? Andiamo, via. Università è rivolta, cortei in tutta Italia contro la riforma Gelmini, scontri a Roma tra polizia e studenti davanti a Montecitorio. Berlusconi, gli studenti veri sono a casa a studiare, Bersani, governo irresponsabile, maggioranza battuta due volte, tra poco il voto finale. La speculazione attacca anche l'Italia, Letta, turbolenze pericolose, trascera assicura, eurozona stabile, disoccupazione record. La rabbia USA contro Assange, è un criminale, Frattini va catturato ed interrogato, i boss difende Berlusconi accoltellato dagli USA. A Pompei si sbriciola un muro della casa del moralista vicino alla Domus dei Gladiatori, crollata un mese fa, Bondi no, inutili allarmismi. Solo il saluto degli amici, nessun funerale per Mario Monicelli, era l'ultimo desiderio del grande regista, il ricordo di Carlo Verdone. Dopo la rottura delle trattative con la Lega, l'associazione calciatori proclama uno sciopero per l'11 e il 12 dicembre. Nome della trasmissione dell'animale che neanche a Feltri ama gli animali, perfino l'ultimo negli animali, ma non la zanzara. E tu sei la zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Bellissimo lo Sgarbi di ieri. Soltanto tu. Che non sa che era il nome di un importante giornale mitico del liceo Parini di Milano. Quindi prima... un titolo bellissimo. Sì, secondo me è straordinario, però naturalmente poi l'opinione di Sgarbi. Più bello di quei titoli che vorrebbe dare lui a una trasmissione che mi hanno detto non si farà mai. Ah, ti hanno detto che non si farà mai la trasmissione, ma di Sgarbi? Sì, non si farà mai, dai. Quattro titoli sono usciti fuori ieri, che era il bene e il male, non il mi ricordo. Il bene e il male, ma che la vai, scusa, io la prossima volta glielo dico. Ieri l'ho sentito molto carico, ma appena lo vuoi collegare sono titoli bruttissimi. Forza Italia, l'altro, Forza Italia. Forza Italia, no. Che può dare molto di più il professore. Un altro che cos'era? Bene e male, Forza Italia. No, se li ho già dimenticati, quanto erano brutti, li ho già dimenticati. Va bene, sempre sordi i lavoratori, va? Perché oggi gli studenti, insomma, quelli che erano in piazza. Ma no, ma perché continui a dire così? Sono studenti e precari all'università. Sai che trovo preoccupante il fatto che qualche giorno fa ho detto che gli studenti veri stanno a casa a studiare, no? Quelli che studiano sul serio. Oggi ha ripetuto la stessa cosa Berlusconi. E la prima roba fosse intelligente, dovresti fare tu il ghostwriter di Berlusconi. Beh, certo. farei molto meglio di quelli che ci sono adesso, sì. Senza falsa modestia. Sta parlando comunque di Pietro, alla camera. Ah sì, adesso mi collego con la camera. Sordi e lavoratori, insomma, perché alla fine oggi gli studenti questo hanno fatto. Lavoratori! Vabbè, cosa faranno i finiani il 14? Della vedova, oggi sfiducia, poi entro il 14. Decideremo al momento debito, mancano ancora 15 giorni, potrebbero accadere delle cose. Ad oggi direi sfiducia. Ma che deve succedere da qui al 14, quando il tuo leader ha già detto che Berlusconi se ne deve andare? Cosa deve succedere? Vabbè, tattiche schermaglie. Noi, dice Dalla Vedova, vogliamo risolvere i problemi del paese. La nostra proposta è un tentativo di soluzione ai problemi del paese e ai problemi di Berlusconi. Mettiamo un punto fermo, facciamo un nuovo governo con maggioranza allargata. Se si arriverà così, credo che sarà poi inevitabile prendere atto che i nostri destini si separano. Vabbè, ma insomma sono chiacchiere, dai. Hanno già detto che Berlusconi deve andare a casa. Vogliono la testa di Berlusconi, perché non dirlo non dirlo chiaramente. La testa, vogliono politica. Sì, vabbè, la testa di Berlusconi è anche politica, non so, dice, però vogliono la testa di Berlusconi. È mancata una guida politica. Rossella, ancora, pagano le escort per parlare, ha ragione Berlusconi. Beh, no, certo, insomma, da Rossella non è che ci si poteva aspettare. No, Rossella 2000 no. Vai con Rossella 2000. Beh, qualcuno le pagherà, se una ragazza va in televisione a dire io sono una prostituta, poi dopo come faccia a mantenersi, poi non si sa. Quindi comunque Berlusconi ha fatto bene a fare a dire quello che ha detto. Vabbè, ancora della vedova, mi ero scordato, un altro premier sarebbe già a casa dopo le rivelazioni di WikiLeaks e non solo. Nessun presidente del Consiglio o capo di Stato sopravviverebbe 5 minuti a quel tipo di notizie, da nessuna parte, Francia, Germania, dopo 5 minuti sarebbe a casa, anche se non è il capo di un partito che fa la morale a tutti gli altri cittadini. Qualche ascoltatore, poi ci sono molte altre cose. Simona da Torino, 800 24 00 24, buonasera. Buonasera Cucciani. Dica. Ma intanto volevo farle i complimenti per il suo essere così stoico rispetto a tutte le critiche che sta ricevendo in questi giorni. Sono abituato, vivo di questo. Bene, beh, allora tanto per girare il coltello nella piaga, a me sembra che lei ragioni un po' rispetto alla sua giovane età. Sì, ma io non sono troppo giovane, sono del 66, insomma, ho una certa età. Eh beh, voglio dire, sicuramente non ne ha 80, presente quei vecchiettini che sul pullman si lamentano del fatto che i giovani alzano la voce, del fatto che... Lei dice, è questa la sindrome, lei dice, no? Penso di sì. Può darsi anche che ci sia, il fatto è che io non pensavo delle cose molto diverse anche 20 anni fa, e questo è forse più preoccupante dal suo punto di vista. Cioè 20 anni fa pensavo le stesse cose. Si è reso conto del parallelismo con Berlusconi, insomma. Ma ho capito, ma non è che tutte le cose che dice scusi un attimo Simone, non è che tutte le cose che dice Berlusconi sono tutte stronzate. Qualche volta, ogni tanto, qualche cosa giusta la dice, così en passant, diciamo, no? O tutto quello che dice è sbagliato? No, guardi, in realtà seriamente, io sono molto più categorica rispetto a lei nel dire che questa è una manifestazione contro il governo. Ah, come era male, infatti uno dovrebbe avere no, ma contro il governo è chiaro, perché il governo è quello che ha approvato la riforma, che vuole approvare la riforma della scuola, per cui è dell'università, per cui è scontato, ma è in generale una manifestazione contro il governo Berlusconi in quanto tale, non per la riforma, insomma, no? Ma sì, decisamente. No, ma infatti è legittimo, lei lo rivendica, ma è giusto, è corretto quello che lei dice. C'è un obiettivo in questo, c'è un obiettivo. Cioè, quello? La paura di che? La paura, instillare paura nel governo. Ah, instillare paura, lei dice. Parenzo, però nel momento in cui la gente si rivolta, sì, certo, cominciano ad avere paura. Nel momento in cui la gente si rivolta, dura 3 giorni, occupano qualche università, autostrade, cose gravissime, per carità. Poi tutto finisce. Ma è un segnale. È un segnale. Comunque lei ha ragione, Simona. L'obiettivo è quello di scardinare o comunque di dare ancora un colpo a un governo traballante. Non c'è dubbio, Simona, è così. Io mi auguro che funzioni, questa è la mia opinione, insomma. Poi, Parenzo, io voglio fare un applauso a questa ascoltatrice, Simona, perché invece di raccontarci le stupidaggini sull'università, sulle cose, sulla riforma che non va, o che funziona, non funziona, questa ha detto una verità. Una verità assoluta, manifestazione, qui bisogna dare un colpo, le dice, al governo traballante. Spero che questa cosa funzioni. Dunque, sono in piazza solo per quello. Brava Simona, applauso. Applaudi pure dopodiché te, Parenzo. Un conto sono applauso Simona. Non sono localizzate solo a Roma, no? No, che ma c'entra Roma? Tutta Italia. Vabbè, che c'entra? Certo. C'era tanto che non si vedevano. Vabbè, ma sì, era tanto. Ma veramente, a me sembra che l'Italia sia un paese, insomma, in cui le manifestazioni abbondano. Se questi riuscissero davvero a stare sui monumenti e sui tetti dell'università. I monumenti, non mi parlare dei monumenti. Sarebbe l'occupazione dei monumenti è meravigliosa, quella delle strade è fastidiosa, quella dei monumenti è anche Vittorio Sgarbi ha detto ieri, no? Ho capito, ma non è che tutto quello che dice Sgarbi. No, va bene. Appunto. Di Pietro, fammi sentire Di Pietro alla Camera che dice. Di coprire sempre l'anello più debole del sistema. Ieri i disoccupati, i lavoratori, i precari, oggi gli studenti e i giovani, cui state togliendo la speranza di un futuro migliore. Capisci, quando uno dice state togliendo la speranza a un futuro migliore, poi dall'altra parte altrimenti si dice stiamo dando la speranza ai giovani, è tutta una demagogia. Hanno inquadrato, ecco, applausi per Di Pietro, sto seguendo anch'io, hanno inquadrato una Maria Stella Gelmini elegantissima con un maglione in cashmere. Sì, che ne, sai, che ne sai che è di cashmere il maglione? Lo so, si capisce. Sì, oh, della vedova, della vedova per Futura Libertà. Delle università pubbliche italiane. E Futura Libertà voterà dunque a favore della legge. Ah, meno male, ti sei arrampicato della vedova, sei andato sui tetti e adesso voti a favore. Ho ispirato l'obiettivo di fondo. Rinnovare per dialogare, dice, sono andato lì per ascoltare e dialogare. Criteri di maggiore trasparenza e di merito nella gestione delle risorse. Però cioè, coerente il presidente. Perché Fini ha detto che riforma che Futura legge, Libertà avrebbe votato a favore e ci mancherebbe altro che votassero contro, no? Valorizzazione del merito. Abbiamo la borsa 800240024, ancora molto da dire, ospiti fra pochissimo: Emiliano da Bologna, Daniela da Ravenna, Claudio da Udine, Simona da Torino, l'abbiamo già sentita, Giuseppe da Cremona, Stefano Torino, tutti quanti tra qualche istante, restate con noi, La Zanzara. Il nome della trasmissione dell'animale che neanche a Feltri ama gli animali, perfino l'ultimo negli animali, ma non La Zanzara. E tu sei La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. David Parezzo, il collegamento da una Roma sottosopra, da un'Italia sottosopra. Per chi fa le pernacchie ai lavoratori, c'è un pendolare da Civitavecchia che mi scrive: per me le idee che propugnano, se mai fossero tali, sono morte, dice, sono morte. Mi hanno bloccato dal mio ritorno quotidiano a casa. Rabbia comprensibile. Certo. Guzzanti, i Wild Party. Guzzanti, Wild Party? No, veramente non è. C'è un uomo solo. Paolo Guzzanti questa mattina, Agora. Più che Wild Party, sono parties con un uomo solo, cioè arriva una carrettata di queste ragazze, alcune delle quali sono delle giovani, normali, altre sono delle escort pagate che vengono portate in offerta speciale, come nel caso della D'Addario, senza altri uomini che il nostro Presidente del Consiglio. E poi una litigata mitica tra Giulietto Chiesa e Paolo Guzzanti, con Chiesa che dà dell'imbecille a Guzzanti perché Guzzanti ha parlato di KGB a un certo punto a proposito degli affari di Berlusconi in Russia. Mitico, questa mattina Agora. Dopo l'attacco di 2 anni fa, Giorgiano contro l'Ossetia del Sud, queste l'attacco sono le due Giorgiano cose. Contro l'Ossetia. Sì, l'attacco ma che l'attacco Giorgiano contro l'Ossetia? Sì, se lei non legge i documenti, sì, se lei non legge i documenti bene, dell'Unione bene. Europea, non è colpa mia. Ma l'Unione Europea, che è stato un attacco russo in Georgia, diventa l'attacco Giorgiano contro due sue regioni, sì, signora, interne al paese. Anche Guzzanti. Questa è la versione del KGB come al solito, ma dai. Ma non dire cazzate, imbecille. Ma non dire stupidaggini, imbecille, che non sei altro. Allora, ma non dire stupidaggini, questo di quello io. Allora, non usiamo termini, insultiamo. E va bene, poi prosegue, non ti lascio parlare. Diplomatici. Sì, un linguaggio fantastico. Questa mattina, Agora, di prima mattina, sentite. È un risultato. Va bene, posso già chiedervi acquisito a tutte e due di andare oltre e magari già insomma, senza, no, se non mi interrompe, se senza, non mi interrompe questo qui. Scendere né da una parte né dall'altra. Questo qui ti interrompe quanto gli pare e piace, se, hai capito? Se non mi siamo in una trasmissione televisiva, certo, e io ti interrompo quanto voglio e seguito a interromperti dopo i tuoi insulti e non ti lascio parlare e vediamo allora che cosa. Va bene? Paolo Guzzanti, chiedi scusa, ritira gli insulti, se no tu qui non parli più, va bene? Io seguito a darti sulla voce, allora, tu mi hai insultato, io non ti faccio parlare, tu ritira bravo, i tuoi insulti, sì, e non passa una parola di quello che tu dici. Allora, sì, i due colleghi prestigiosi del giornalismo italiano, no, prestigioso, adesso sono prestati alla politica, entrambi, per cortesia, no, realmente, insomma. E Guzzanti a un certo punto Parezzo stava per dire, no, veramente qui prestigioso ci sono solo io, poi si è fermato in tempo. Che combattimento. Che questa mattina Rai 3 Agora, poi la mattina presto, come Biarello, dice, sì, alle mattina 9. Presto, cioè alle 9 erano lì a discutere, a scannarsi, imbecille, eccetera. Va bene, Claudio da Udine, buonasera. Claudio, buonasera. Che succede? Oh. Sì, la sento, dica. Sì, buonasera. No, niente, tornavo sul discorso lì delle manifestazioni, no? Sì. Ecco, per me fra poco ci vorranno gli elicotteri, altro che carri armati. Ah. Io sono giro. Lei se lo augura? Se lo augura? No, me lo auguro, ma assolutamente. Io ho già famiglia, tengo famiglia, per cui appunto. Spero, spero che questo governo salti alla svelta, perché altrimenti finirà così. E dico solo quello che ha fatto questo governo, per farle un esempio di quello che vuole fare questo governo, quello, di quello che dice e invece quello che fa. Un esempio solo rispetto al governo precedente di Prodi. Prodi aveva fatto una cosa semplicissima. Oggi assumi una persona, domani vai a lavorare. La prima cosa che ha fatto questo governo ha tolto questa cosa qua. Non ho capito, scusi, non ho capito bene. In fase di assunzione di un operaio, oggi viene assunto un operaio, veniva con la legge vecchia. E il giorno dopo poteva andare a lavorare sul posto di lavoro. La prima cosa che ha fatto questo governo è di togliere questa legge. No, ma scusi, quella di legge di la pubblicità, Parenzo, la sicurezza sul lavoro. Parenzo, ma di che sta parlando questo ascoltatore? Allora, le faccio un esempio. Non capisco, che legge sta parlando, Claudio? Una legge sul lavoro. Ah, della sicurezza sul lavoro sta parlando lei. Adesso stiamo facendo la pubblicità sulla sicurezza sul lavoro. Le modifiche, sì, vabbè, però Claudio, non mi venga a entrare... No, ma la legge sulla sicurezza al lavoro, abbia pazienza, non è questo il metro per giudicare. Non vuole capire. Questo qua, per farle capire, la volontà politica di non fare niente, anzi, non di non fare niente. Di fare cazzate, cioè, per esempio, quale sarebbe la stupidaggine, allora, o la cazzata, come dice lei, che ha fatto? Che se il governo precedente, per evitare il nero, aveva obbligato le aziende ad assumere il giorno prima e il giorno dopo l'operaio si presentava in cantiere. Sì. Se arrivava la verifica e uno era stato assunto, ammazzate. Sì, stava a 12.000 euro di multa. Sì, sì. La prima cosa che ha fatto questo governo ha tolto questa misura. Allora lei mi dica se questo è un modo per sistemare le cose. No, pubblicità sulla sicurezza. Claudio, è ridicolo. Probabilmente ha ragione lei, è stato un provvedimento sbagliato. Lei giudica anche in base a questo. È legittimo giudicare un governo a seconda delle proprie sensibilità, della propria professione, dell'ambito in cui si lavora. È legittimo, per carità. Non le sto contestando assolutamente nulla. Non conosco nel dettaglio questo passaggio che c'è stato. Lei me lo racconta così. Evidentemente ci saranno versioni contrastanti, però lei sulla base di questo giudica l'operato di un governo. Va benissimo. Emiliano da Bologna, buonasera. Sì, non so se poi l'hanno approvata, ma c'era. Sì, infatti, poi bisogna vedere come. Però la norma volevano farla introdurla così. Emiliano. Buonasera. Dica. Cruciani, io da suo fedele ascoltatore la inviterei a mantenere la calma, diciamo, in questi frangenti burrascosi. Ma io sono calmissimo, Emiliano. Discuto animatamente, è una cosa diversa dal discutere animatamente, non significa dare in escandescenza. Ma io non sto dicendo questo, lei l'altro giorno mi si è messo sulle posizioni di Giannino, adesso è sulle posizioni. Ma è normale che sono sulle posizioni di Giannino, scusi. Emiliano, abbia pazienza, perché essere sulle posizioni di Giannino significa essere esagitati? No, mi scusi. Essere sulla posizione di Giannino significa cose un po' un tanto al chilo, insomma. No, veramente non mi pare che Giannino sia uno che dia giudizi tranchant senza conoscere le cose. Emiliano, questo è un suo giudizio, però scusi un attimo, Emiliano, adesso non mi faccia arrabbiare sul serio. Lei ha detto che prendere le posizioni di Giannino significa essere degli esagitati. Abbia pazienza, questa qua è una follia quella che lei sta dicendo. Perché sugli studenti. Ho capito, sugli studenti, certo. E allora di che parliamo? Degli studenti stiamo parlando. Allora sviluppare un attimo. No, lei non sta sviluppando, sta dicendo una stupidaggine. Perché sta parlando lei. No, sta dicendo una stupidaggine. Sta dicendo che siccome io sono d'accordo con Giannino, allora sono un esagitato. Lei sta sbarellando lei. Mi faccia dire la mia stupidaggine. Allora dica. Quando l'ho detta non gli sembra. No, ma la stupidaggine, non ho detto che lei sta dicendo stupidaggini. La prima cosa che ha detto è già una stupidaggine. Passiamo alla seconda. No, ma perché vede, quando Giannino, la differenza quando è perché io ascolto lei da anni e non ascolto Giannino. E vabbè, questo è che vuole dire, Emiliano. Perché, ma mi faccia sviluppare. Ma faccia, lei ha tutto il tempo che vuole. Quando ascolto Giannino, io lo so già prima dell'inizio della puntata cosa dirà. E la mattina in cui ha paragonato il crollo di Pompei con gli studenti che salgono sulla torre di Pisa, e io lo sapevo, ero sicuro. Ho capito, lei è particolarmente intelligente, Emiliano, e lei è particolarmente intelligente, cosa vuole che le dica? Che non mi aspettavo, è che lei mi facesse la stessa equazione. È una boiata. Io non ho detto la stessa, io non ho fatto la stessa equazione. Ho detto. Dai, è una boiata, dai. Non è una boiata, è una provocazione che ci può anche stare. È una provocazione che ci può anche stare. Perché nella provocazione non è con il crollo. La provocazione non è con il crollo. È Emiliano. Un modo di trattare queste cose. Ma non c'è. No, ma non è un aspetto. Dire che questi non fanno Emiliano, niente, allora protestano. No, Emiliano, nessuno sostiene questo, sono tutte delle provocazioni che però dietro, naturalmente dietro una provocazione c'è un ragionamento. Allora, il ragionamento, se vuole glielo spiego, è molto semplice ed è questo. A proposito dei monumenti che crollano, no? Qual è il ragionamento che c'è dietro? Siccome ci sono persone che si sono stracciate le vesti sulla tutela del patrimonio, eccetera, eccetera, adesso invece non dicono nulla quando vedono i monumenti pieni di striscioni, occupati, eccetera, eccetera. Mi pare che un ragionamento che ci possa stare, ma non è il fulcro della vicenda, Non è il fulcro della vicenda. Mettere sullo stesso piano una protesta. Ma non c'è mettere sullo stesso piano, ma non significa mettere sullo stesso piano. Vabbè, allora ha ragione lei, Emiliano. Allora ha ragione lei, allora ha ragione lei. Che vuole che le dica? Ma secondo lei c'è un problema di beni culturali se 10 persone salgono sulla Torre di Pisa uno striscione? Ma lei lo sa quanta gente certo, sale in un anno? Ma che c'entra? No, io non sto dicendo che c'è un problema, sto dicendo e allora che. Perché metterlo in paragone? Perché secondo me occupare i monumenti e mettere gli striscioni sui monumenti, entrare in un posto dove bisognerebbe entrare per visitare i monumenti e non per protestare, è comunque qualcosa che non fa bene ai beni culturali in Italia. Se vuole, sapere come la penso io. Questo, ma lei ma io la penso così, Emiliano, ma cosa vuole da me? Io la penso così. È meglio di così. Lei ma che è significa così? È meglio di così? Io lo so perché lei li odia questi, perché lei era uno di quelli che non faceva casino. Ma io non li odio, io non odio nessuno. Io non odio nessuno. Quelli come lei li conosco benissimo, sono quelli che non ci potevano vedere perché facevamo casino. Ma senza voler entrare nelle motivazioni per cui lei odia le rivolte. Io non le odio le rivolte, io non odio nessuno, è diversa la cosa. Non sono una delle persone. Io non odio. Però andare a parlare su quegli altri studiano e questi sono solo dei casinisti. Allora quando se crolla una cosa va bene e se crolla una cosa lasci perdere adesso questo non è questo. Cioè, capito, non è so polemichette, ma che vogliamo saranno pure saranno anche polemichette. Movimentismo giovanile. Sì, io alla sola io a me mi viene è un modo per esaltarlo. Sì, ma mi viene una ci mi vengono i brividi quando sento movimentismo giovanile, vabbè, come lo chiamerebbe lei? Ma non lo so, ribellismo spirito di ribellione, fare casino, farsi una bevuta, occupare un'autostrada, occupare un binario, occupare un binario, ci si diverte a occupare un binario, è divertente, occupare il binario, bloccare il paese, è divertente, sentirsi protagonisti, ha capito? Sentirsi protagonisti. Ma sì, ma certo, ma lo so, ma l'ho fatto anch'io, ma allora, i giovani lo fanno, è normale, i giovani che lo fanno sono di solito delle ottime persone. Ma io non sto dicendo, non sto dando giudizi. E non è che sono peggiori perché quelli che non lo fanno spesso nella storia, quelli che facevano casino l'hanno dovuto ringraziare poi a posteriori. Senta, io ho combattuto nel mio piccolo contro la riforma Berlinguer, contro la riforma del 3+2. Chi ci aveva ragione alla fine? Noi o loro? No, ma non c'è dubbio che quelli... Come erano queste due riforme? Che sono state peggiorative o migliorative? Via, lo dica. Emiliano, Emiliano, abbia pazienza. Non ho visto binari occupati o autostrade occupate per il 3+2. Ecco, abbia qui, pazienza. Se mi permette, vorrei fare un distinguo. Faccia il distinguo. Ecco. Se io sono l'operaio della Fiat di Termini Merese, che è una fabbrica privata, e ho una vertenza col mio padrone privato, va bene? E occupo un'autostrada, va bene? Sì. Secondo me è una boiata. Oh, meno male. Oh. Se io sono un cittadino, poi neanche non c'è bisogno che uno sia uno studente, che per protestare contro un ente pubblico universale come è un governo, che sta facendo una cosa che coinvolge nel bene e nel male tutti, cioè tutta la collettività. Ma mi pare un distinguo, io l'ho capito il suo distinguo, mi pare un distinguo piuttosto. È una cosa diversa. Una cosa diversa. Non è diverso. Io ho il diritto di andare da una persona. Ho il diritto, secondo me, secondo me. Io ho il diritto di andare da una persona e fargli, guarda, per citare un grande poeta, che puoi anche fare finta di essere assolto, ma sei coinvolto. In questa cosa se ci sei coinvolto e se ti giri dall'altra parte, siccome io penso che sia una cosa che riguarda tutti, io vengo lì e ti dico no, te non ti puoi girare dall'altra parte. Anche il fallimento di una piccola impresa è una cosa che riguarda tutti in teoria. Vogliamo paragonare il sistema scolastico pubblico, il fallimento di una piccola impresa. Guardi, le dico la verità. Emiliano, guardi, le sue argomentazioni sono assolutamente valide, per carità, non sto dicendo di no, come vede si può discutere anche tranquillamente, lasci perdere le provocazioni, infatti fanno parte del gioco, le provocazioni ci stanno tutte in un programma radiofonico. Il punto non è questo, il punto è che a prescindere dall'occupazione dei binari eccetera, io credo, perché ho letto le cose, ho letto qualche intervista anche interessante, che il grosso degli studenti, la stragrande maggioranza di quelli che sono in piazza o occupano i binari eccetera eccetera, francamente non sappiano molto dell'argomento di cui si sta discutendo. Lei oggi ha letto, spero, l'articolo di Francesco Giovazzi sulla prima pagina del Corriere della Sera, credo di sì perché è una persona informata. Io credo che contenga molte verità, cioè le insufficienze di questo disegno di legge e nello stesso tempo le virtù di questo disegno di legge. Non credo che queste cose siano argomenti di discussione né tra gli studenti pacifici né tra quelli che tirano i sassi contro le camionette della polizia o vogliono entrare in posti dove l'ordine pubblico ha deciso che non bisogna entrare. Torniamo in onda, 800 24 00 24. Abbiamo Emiliano da Bologna con noi. Prego Emiliano. Parenzo, che dici? Beh, dico che mi stupisce quello che ha detto Bossi, che tu hai ricordato all'inizio della trasmissione. I ragazzi hanno qualche ragione. Sì, Bossi. No, ma vuol dire che la questione è molto più profonda di quanto non sembri, no? Premesso che, appunto, ripetiamo, le autostrade non si bloccano, i pendolari che sono già stravolti dalla giornata di lavoro devono poter andare a casa sereni e tranquilli. Beh, secondo Emiliano invece non devono andare a casa sereni e tranquilli perché devono essere coinvolti, vero Emiliano? Ma non crea consenso. Ma non ci interessa, ma il consenso non è la meta ultima. Ma se lei qual è la meta ultima? Scusa, il consenso non è la meta ultima di tutto. Non è che si può fare tutto sempre in funzione del consenso. Scusi, Emiliano, guardi dove siamo arrivati a forza di no, però adesso al di là di questo, dove siamo arrivati a ricercare il consenso, la politica e la democrazia è fatta di raccolta di consenso, altrimenti non si fa nulla. Ma anche le battaglie sindacali hanno bisogno del consenso. C'è bisogno del consenso. Allora, voglio dire, Emiliano, la scuota di prima, che era d'accordo con la protesta, dice il vero obiettivo in realtà non è che era l'università eccetera eccetera, è una cosa contro il governo, vero? Lei me la conferma questa cosa? Mi dica sì perché non lo so, ma che certo, lei non è una persona ipocrita, insomma. Ma certo, scusi, ma è banale, ma che è contro, no, non è banale, governo. No, ma non no, attenzione, ma come no, è che se il governo non voglio dire è certo il governo ha presentato la riforma, ma non è una protesta contro la riforma, è una delle tante manifestazioni contro il governo Berlusconi. È una protesta contro l'ennesima legge classista di un governo. Ma che classista, ma Emiliano, adesso guardi, classista, ma che classista. Alla fine me l'ha fatto. Ma come ma no? Ma che classista, su. Ma che filo americano, vabbè. Ma è legittimo, ma è una stupidaggine. Ma è una stupidaggine, su Emiliano, ma sono posizioni legittime, ditelo però, basta. Ma chi ha detto posizioni legittime? Ma è tutto legittimo, ma questa qua è una stupidaggine, una riforma filo americana, classista, ma che vuol dire? Ma della CIA, dietro la Gerdini della CIA. È una riforma classista, elitaria. Ma che significa l'Italia? Cosa significa l'Italia? Mi spieghi bene, Emiliano, cosa significa l'Italia? Significa che ma magari facessero l'università prioritaria. Capito? Qui si butta come al solito il bambino con l'acqua sporca. Siccome l'università pubblica italiana non funziona, la radiamo al suolo. Ma perché questa legge radia al suolo l'università pubblica italiana? Il concetto di università pubblica radia al suolo. Ma quando mai? Ma Emiliano, sì, ma sì. Non la rade al suolo abbastanza, non la rade al suolo abbastanza, secondo me. Non la rade al suolo abbastanza. Ma no. Cioè, vogliamo togliere l'autonomia ai professori perché sono troppo autoreferenziali. Ma, no. Ma cosa ci combina fare un consiglio d'amministrazione? Ma magari ci fossero, magari fossero amministrate meno dai professori le università. Ma mia, si discute su questo, si discute sul modo di farlo. Ma lei sa che l'università di Siena è fallita per una mala gestio che hanno fatto i dipendenti di quella università. Lei ma sa che un'università pubblica fallita, unico caso in Italia. Emiliano, comunque il fatto abbiamo che ci sia una mala gestione dell'università pubblica significa che noi la dobbiamo riformare, ma non per questo in senso meno pubblico. Ma chi l'ha detto che è così? Ma infatti benissimo criticare Emiliano, questa riforma dicendo Emiliano che questa qua non è la riforma che lei immagina, questo è il punto, non è la riforma che lei immagina. L'unica vera riforma sarebbe quella di cui parla oggi il professor Giovazzi sulla prima pagina del Corriere della Sera e molte altre persone prima di lui. Naturalmente, ecco, però a me quello che mi, il quello valore che mi legale convolge del titolo di studio, via, e poi questa sarebbe la vera riforma. Concorrenza tra atenei. Ma sì, ma questo, ma che c'entra con questa riforma? E infatti questo purtroppo non c'entra. Purtroppo quello che si dovrebbe fare. Purtroppo non c'entra. Certo, Emiliano. Purtroppo non c'entra. Però dopo quello che ci stiamo dicendo, Emiliano, non si capisce perché lei è d'accordo con questa protesta, così perché è bella la protesta. Perché questa riforma? Perché è bella la protesta? No, perché sì, questa perché riforma, bella, non tocca tutti i me lo dica, confessi. No, no. Cioè si occupa una strada, si occupa un binario per queste robe qui, siamo seri, su. È sintomo di tensione, non è una cosa bella, è sintomo di tensione, non è una cosa da idolatrare. è un sintomo da rispettare, ma non da idolatrare. Quella tensione sociale non è una bella cosa. Ma che tensione sociale? Ma quale guardi, tensione sociale? Guardi, lei pensa che la storia sia finita. La storia non è finita, capito? Quello a lei piacerebbe che la storia... A lei piacerebbe che non sia finita la storia. La stabilità sociale in cui noi viviamo, ce la siamo conquistata, non è eterna e non è inviolabile. Ma speriamo che sia eterna e inviolabile, invece. Le azioni di un governo irresponsabile possono portare all'instabilità sociale. Ce lo vogliamo mettere in testa o no? O bisogna fare una rivolta come quella francese? Vabbè, ma non questo. È così, non è questa la situazione, non ma è questa non è la situazione. Ma ci si arriva. I dati sono lì a dimostrarlo. I dati sono lì a dimostrarlo. C'era una recente ricerca dell'Istat sul grado di soddisfazione della vita degli italiani che è abbastanza sorprendente. Dovrebbe leggerla, Emiliano, sul grado di soddisfazione che hanno gli italiani in questo momento, su come va la vita, eccetera, eccetera. Grazie Emiliano. Giuseppe da Cremona, buonasera. Giuseppe, mi sente? Non mi sente. Stefano da Torino. Torrone di Cremona. Non so che sta facendo. Stefano da Torino, buonasera. Pronto? Dica. Buonasera. Ma io sono uno di quei lavoratori che questa sera è rimasto bloccato in mezzo al traffico, ero uno studente ma non andavo alle manifestazioni. E le chiedo semplicemente, di fronte a questo clima di tensione che mi sembra abbastanza palese, no? Sì, ma secondo me il clima di tensione non è che esiste perché ci sono le manifestazioni degli studenti. No, ma diciamo che... Ma io non lo so, ma bisogna il clima, il cosiddetto clima di tensione, Stefano, bisogna misurarlo su tante cose. Ripeto, ci sono indicatori che non mi pare che siano lì che lampeggino clima di tensione, rivolte sociali in stile rivoluzione francese, Stefano. No, ma devo mandare in onda la pubblicità. Siamo qui alle 19.59, 33 secondi in questo momento, mentre parla sulla dichiarazione di voto alla Camera Dario Franceschini, Partito Democratico. Sentiamo. I destini individuali dei nostri ragazzi, perché i ragazzi della globalizzazione vedono cosa succede ai loro coetanei, vedono che in un altro paese europeo, se hai studiato, se sei bravo, vinci un concorso e vai in cattedra, e vedono che da noi puoi essere bravo, puoi avere i master, puoi avere studiato, per non bruciare l'unica risorsa che abbiamo, che ha la nostra economia nel mondo globale: investire sul capitale umano, sull'intelligenza, investire sul futuro. Questa è la domanda che viene dai tetti, che viene da dietro gli striscioni. Questo è il vento che sta soffiando tra i giovani. Soffia forte nelle nostre università ed è pieno di fiducia e pieno di speranza. Berlusconi oggi, con la consueta arroganza di chi sente che gli sta crollando tutto addosso, si sente ormai perduto, ha detto agli studenti: andate a studiare bene, caro Berlusconi. È proprio per questo che manifestano i ragazzi, perché vogliono poter studiare nelle università italiane. Non avrete il tempo di fare diventare queste norme una legge. Il vostro percorso finirà molto prima. E l'arroganza con cui avete cercato di imporre questa finta riforma sarà il vostro ultimo atto di debolezza. Questo era Franceschini. Grazie. Sentiamo i titoli del digiuno. Cortei, tafferugli, blocchi stradali e ferroviari, la protesta degli studenti contro la riforma, vetrine rotte a Milano, città in tilt. Berlusconi, gli studenti veri sono a casa a studiare, da Schifani e Fini solidarietà a forze dell'ordine, polemiche su scontri, la Camera vota la riforma. Niente funerali per Monicelli che si è tolto la vita ieri a Roma, la salma sarà salutata a Rione Monti dove il regista viveva, poi camera ardente alla Casa del Cinema. Senza esito le ricerche di Yara, le tracce seguite dai cani si fermano in un grande cantiere edile, nella Bergamasca fiora la paura. Wikileaks, dopo la diplomazia, prossimo obiettivo le banche, Bossi dagli USA, coltellata a Berlusconi, Frattini uniti come dopo l'11 settembre. Con il nuovo codice della strada, visite di idoneità più rigorose per il rinnovo della patente di chi ha più di 80 anni. Una commissione composta da 3 medici darà il benestare per continuare a guidare. Siamo qui, Antonio da Verona, 800 24 00 24. Poi riprendiamo sempre con Stefano, anzi no, c'era Stefano da Torino prima e poi Antonio da Verona. Stefano, Pronto? Pronto? Sì, Stefano, dica allora. Niente, stavo dicendo che secondo me questo, quello che io definisco essere un clima di tensione meriterebbe qualche riflessione in più, piuttosto che magari della, faccia dire, facile ironia sulle affermazioni di Vendola, Bersani. So, guardi, Vendola, però Stefano, lo sa che cosa le dico sulla non questione? È d'accordo, no, ma sulla questione della tensione, sa? Io invece sì, guardi, lo sa da quanto tempo io da quanto tempo praticamente da quando mi occupo di politica, tantissimi anni, sento parlare a ogni passaggio cruciale, in ogni momento importante, che siano queste elezioni o altre cose, c'è un momento di tensione nel paese, c'è rabbia nel paese, cioè, sempre, lo sento e ne sento parlare sempre, e tutti i dati sono esattamente contrari a questa, perché quando uno dice c'è un clima di tensione, poi dovrebbe corroborare questa cosa non dicendo sono diminuito l'occupazione dell'1,5%, il clima di tensione è qualcosa di un po' diverso, insomma, rispetto... No, sì, però... Cioè proprio, come dire, una palpabile rabbia della gente che si manifesta anche in maniera tutto sconsiderata. Ma non è così, ma non ma come è così. No, ma voglio dire, cioè voglio dire, io ho contatto quotidiano con il pubblico, con la gente, le assicuro, le assicuro, e chissà quanti. Più, naturalmente un contatto quotidiano maggiore del mio, naturalmente, più significativo del mio. Ma proprio con le persone fisiche, con le persone, sì, ok? Sì. Io le posso dire, ma parlando anche con altri colleghi, per carità. Colleghi di che cosa, scusi? Come? Colleghi di cosa? Impiegati che hanno contatti con il pubblico, tutto qua, ecco. Sono persone però... Sì, ma sono microcosmi, ha capito? Cioè il punto fondamentale non è che si può misurare la tensione del paese attraverso il proprio microcosmo. In realtà non voglio dare questa, come dire, questa presunzione, però io non lo sottovaluterei questo aspetto, perché la signora o il signore, più o meno abbiente, le assicuro che in più di un'occasione manifestano... Come dire, questa rabbia mal riposta, mal nascosta, non so che dirle, però poi per carità, ecco, non lo sottovaluterei. Invece io, a me piace quando le fa ironia, sinceramente, però questo credo che sia un momento in cui magari fare di ironia su questo. Guardi, le dico una cosa: secondo me, le stesse persone che magari manifestano a lei. La rabbia nei confronti di come vanno le cose in questo paese, no, lo schifo, eccetera, eccetera. Magari vai la sera, vanno al ristorante e spendono 100 euro. Insomma. Questa è la mia. Questa è la mia valutazione. Perché allora, lei ha ragione al 50%. Le posso dire che è vero quello che le dice al 50%. Le assicuro che il restante 50% non se lo sogna neanche lontanamente un ristorante. In due, poi, per carità, diceva. Non sarà tutto un punto di vista. Guardi, globale, io credo che. Che quando lei dice che la maggior parte delle persone non se lo sogna nemmeno il ristorante, non so che persone frequenta, ma insomma. Ma no, anche... ma guardi, quando hai contato, cioè, mi hai detto molto chiaramente. Io vedo sempre i ristoranti pieni, poi sì, mi sbaglierò. Lo so, sa come si dice, però no, che fa. Ma ristoranti da 20 euro, ristoranti da 20 euro, mica da 100. No, per carità, però lei sa benissimo che insomma, tutte le persone che non vanno al ristorante non le vedo. Banale come affermazione, magari sì, ma... no, per carità, certo. E le posso dire che io ho modo di confrontarmi quotidianamente nel mio piccolo e modestissimo punto di vista con persone di diversi strati sociali e ho notato questa cosa. Poi spero, ovviamente, anzi, sono convinto sbaglio, però non sottovalutiamolo perché grazie, Antonio da Verona. Buonasera, salve dottor Cruciani. Dica. Volevo dire che in realtà tutti parlano degli universitari, ma ne ho sentiti pochi di universitari parlare stasera. Così. Ecco, io sono un universitario. Stanno manifestando, occupano i binari, le autostrade, non è che possono sentire le radio o leggere Giavazzi sul Corriere della Sera. Volevo dire dal mio piccolo che secondo me lei ha pienamente ragione, cioè è una protesta contro il governo. Innanzitutto sono stato testimone. Ma lei dove studia? Mi scusi, Antonio. Io studio in un'università della Lombardia. Dove? Medicina. E da noi sono stati organizzati dei pullman per andare a Roma, sì. Pagati dal partito. Partito quale? Non ne ho idea, perché non mi interessa, sinceramente. Più ne resto fuori dalla politica meglio. No, ma ho capito, quale partito, scusi? Non ne ho idea. Lei non può dire, sono stati pagati dei pullman dal partito e poi non dirci che partito era. Faccio parlare. Quello che so è che per l'aderenza bastavano 5 euro per andare a Roma e tornare, che mi sembra un po' poco. 13 anni, sono il resto. Vabbè, comunque, cioè, qualcuno ha pagato delle persone o sono stati pagati dei pullman. Ma chi ha organizzato questi viaggi per andare a Roma a protestare? Da qualcuno, probabilmente da qualche partito di sinistra. No, probabilmente, non lo so. Comunque, poi... Seconda cosa, almeno, per quel che ho visto io, gli studenti non sono stati presi più di tanto da queste manifestazioni. Almeno tutti gli studenti che conosco io non hanno lasciato il proprio studio, ma hanno pensato piuttosto a studiare che andare a manifestare in giro contro questa riforma. E terzo punto che volevo dire è che secondo me le persone che manifestano bloccando le ferrovie, bloccando le strade, non hanno capito un bel niente della democrazia, perché la democrazia si basa sul rispetto del prossimo. Nel momento in cui io arreco un danno al prossimo, non ho capito. Rispetto per la democrazia. Ecco. La ringrazio. Si chiama tecnicamente gatto selvaggio. Ah, che è gatto selvaggio? Gatto selvaggio era questa tecnica che avevano negli anni 70 lavoratori e studenti di bloccare infrastrutture nevralgiche. Gatto selvaggio. Eh sì, perché poi si mettono d'accordo, perché dalla Calabria fino alla Toscana per sì. poi andare. Ora poi sono le tecnologie che aiutano, internet, Facebook, i telefonini. Certo. Ma negli anni 70 che lo facevano attraverso questi costini volantini, si organizzavano attraverso le sezioni, dicevano il gatto selvaggio, meravigliosa l'immagine, no? Del gatto selvaggio, bellissimo. La 7, titoli. Il giorno della rivolta, il giorno della votazione, manifestazione, scontri a Roma davanti alla Camera dei Deputati, dopo quelli dei giorni scorsi davanti al Senato, e proprio alla Camera appunto si sta per votare la riforma universitaria. Gli studenti veri stanno a casa, in piazza ci sono i centri sociali e i giovani fuori corso, così Berlusconi. Reazioni per la capitale militarizzata, protesta Bersani, Vendola parla di repressione cilena, mentre Fini dice va bene così, sto con la polizia. Il martedì peggiore per i pendolari, bloccate dagli studenti le stazioni di Mezza Italia, a Roma complice anche uno sciopero della metropolitana, le città sono andate in tilt. WikiLeaks, dopo i primi fuochi si attendono le nuove mosse, prenderemo di petto le banche, fa sapere il guru del sito pirata, Assange, cercato dalle polizie di mezzo mondo. Eurodebito, partito l'allarme, contagio, il rischio irlandese fa paura, è preoccupato anche il nostro governo, Gianni Letta dice ci vorrebbe un vaccino, le borse anche oggi hanno chiuso col segno meno. A Pompei viene giù un altro muro, stavolta è toccato alla Domus del Moralista, il ministro Bondi chiede prudenza, niente allarmismo, ma il PD punta il dito contro di lui. Mario Monicelli se n'è andato a modo suo, dicono gli amici che ricordano l'uomo dell'antiretorica, e così, fuor dalla retorica, cercheremo di ricordarlo stasera anche noi. Andiamo sul traffico, anzi no, c'è la pubblicità, poi torniamo, 800 24 00 24, ancora molti ascoltatori in linea, Davide Parenzo da Roma. Siamo qui mentre credo che alla Camera si siano concluse le operazioni sulle dichiarazioni di voto, credo che fra poco si voterà, se non sbaglio, presiede Gianfranco Fini, Davide Parenzi, collegamento da Roma, 2013, questa è la Zanzara. Intanto c'è stata una lite tra un deputato del PDL, Enrico Costa, e Fabio Granata, mentre Benedetto Dalla Vedova di Futura Libertà teneva la dichiarazione di voto. Il piemontese Costa ha detto al siciliano Granata: dovresti vergognarti, sei stato paracadutato in Piemonte ed eletto con voti non tuoi. Granata non si trattiene e lo ha apostrofato con un'espressione in dialetto siciliano, al che Costa, sempre secondo chi assisteva a questo botta risposta, ha risposto: scusa, non capisco il dialetto perché è lo stesso di quel cuffaro che tanto critichi. A quel punto Granata non ci vede più, esplode, e il contatto fisico è stato evitato solo per la presenza del fisico imponente di Guido Crosetto, che è sottosegretario alla difesa del PDL, esponente anch'esso piemontese del Popolo della Libertà. Giorgio, provincia di Ascoli, buonasera. Poi Daniela da Ravenna, Sergio da Roma, Giuseppe da Cesena, Giovanni da Verona. Giorgio, buonasera. Dica. Allora, una piccola parentesi che volevo dire, che trovo disdicevole che lei dica quando agli ascoltatori che dicono delle stupidaggini, cioè mi sembra poco rispettoso nei confronti di chi chiama, che già fa uno sforzo. Intanto la Camera ha approvato il disegno di legge sull'università. Sì, cosa c'entra? No, è una notizia che do, se, non, se permette Giorgio. Sì, prego. No, se, permetti, se permette che io dia una notizia, bene, se no, se vuole, no, sì. può anche impedire. Figuriamoci, no, siccome non c'entrava niente con quello che ho detto io, mi chiedevo cosa c'è in giusto. No, l'ho interrotta semplicemente per dire che intanto la Camera... Non c'è problema. Beh, me lo faccia dire però, è una notizia che devo dare agli ascoltatori, abbia pazienza, prego. Giorgio. La Camera in questo momento ha approvato, nonostante le proteste, il disegno di legge sulla riforma dell'università con 307 sì e 252 no. Bene, dica pure adesso. Volevo chiedere, lei riconosce chiaramente il diritto di sciopero, no? Beh, certo che lo riconosco. Costituzionale. Sì, sì. Ecco. E allora, lo sciopero è qualcosa che comunque danneggia, è un'istituzione che serve a danneggiare in qualche modo una controparte, no? Sì, sì, ma allora, l'occupazione dei binari o delle autostrade non sta scritta da nessuna parte. Premesso che io sono assolutamente non violento, sì. Mi sembra veramente inadeguato pensare che chi protesta sia, come descrive lei, solo un appartenente ai centri sociali. Ma io non ho detto questo. Che non gliene... No, no, lei l'ha detto. No, non l'ho detto. Ho detto chi fa casino. Non fa niente di questa riforma. La maggior parte. Cioè, ci sono migliaia di persone che protestano. Sì. Qualcuno sarà informato. Assolutamente sì. Assolutamente però, secondo sì. Secondo me meritano il rispetto. Queste cose che guardi, a me queste cose di buonismo, a me queste cose di buonismo non non c'è nessun buonismo. No, a me non me ne frega niente del buonismo. Io dico ma la mia. Ma se lei gliene frega o no? E allora, abbia pazienza. Lei non gliene frega, allora che cosa mi chiama a fare? Scusi, cosa mi chiama a fare? Se non gliene frega niente di quello che dico, che cosa mi chiama a fare? Esprimere questa opinione. E benissimo, lei può esprimere. Ma benissimo, lei può esprimere quello che vuole, ma evidentemente dopo aver sentito quello che dico io, se non gliene frega niente di quello che dico io, che cosa mi chiama a fare? No, ma io le dico che se lei si esprime sarebbe meglio che rispettasse le idee degli altri. Ma il rispetto non significa stare zitto, abbia pazienza. Ma io non che il rispetto non significa condividere. Lei conosce le migliaia di persone una per una, quelle che protestano. No, scusi. Se sono informati o no. Giorgio, abbia pazienza. Ho ascoltato le interviste, ho letto gli slogan, ho parlato anche con qualche persona e le assicuro che la stragrande maggioranza delle persone con cui ho parlato io. La stragrande maggioranza, lei ne conosce, ne ha sentiti tre e la stragrande maggioranza. Ho detto la stragrande parte. Che non ho detto tre, Giorgio, ho letto qualche intervista, sono migliaia di persone. Giorgio, ma se lei non mi ascolta, allora siamo dal punto a capo. Ascolta me, certo. Vabbè, vogliamo continuare così? No, prego, dica pure. Vogliamo continuare così? No, dica pure. Io mi affermo, lei insulta gli ascoltatori. Io non ho insultato nessuno, questa è una sua opinione. Che insulta... Quando qualcuno dice che c'è delle stupidaggini, anche se è vero che lo dice, non mi sembra una cosa. È una cosa. Senta, c'è molto radiofonica. Ho capito, Giorgio, ma c'è sempre la regola. È l'indice della sottocultura nella quale siamo immersi. Benissimo, sarà pure sotto. Benissimo, ma non c'è dubbio, io faccio parte della sottocultura. D'accordo, ma voglio fare un applauso personale, tutto lì. No, ma c'è sempre un metodo molto semplice in questo caso. Lo vuoi ripetere tu, Parenzo, qual è il metodo molto semplice? Si cambia frequenza, ma non lo faccia, perché in verità si diverte, ha voluto dialogare con Cruciani. E infatti è questo il punto. Perché lei ascolta la sottocultura? Ma perché mi aspetto qualcosa di meglio ogni tanto qualcosa di piace, invece, dai, perché le piace un po' le piace. Sì, ma certo, ma per carità. C'è una sottile per un maggiore rispetto? Guardi, il rispetto non fa parte, Giorgio, il rispetto a me, vede, queste cose un po' scontate, il rispetto, che vuol dire? Certo che c'è rispetto, ma che vuol dire il rispetto? Non significa stare zitti, non ho capito. Dice lei, questa è una stupidaggine, non rispetto. No, io non ho detto una stupidaggine, il rispetto in questo caso non c'entra. A me non l'ha detto, l'ascoltatore prima gliel'ha detto. Cosa ha detto? È la prima volta che lo sento dire. Ma cosa ho detto l'ascoltatore prima, scusi? Queste sono stupidaggini, certo. È una grande stupidaggine. Certo. Vabbè, d'accordo, uso questa espressione, non è un insulto, non è un insulto. Lo sa quanto uno che dice una Lo sa quante persone? Questa è da sciocchezzuola. Mi pare, che cosa dovrei usare? Un linguaggio più edulcorato, Giorgio? Una sciocchezzuola o qualcos'altro? No, ma uno. Allora dobbiamo trascendere, non mi sembra il caso. No, ma infatti non stiamo trascendendo. Allora non si tratta di linguaggio, si tratta di avere rispetto per il prossimo, tutto lì. Ho capito, ma non, le assicuro che non c'entra niente rispetto per il prossimo. No, va bene. Allora, no, ma in questo caso non c'entra niente, le posso assicurare. Non c'è... Il rispetto c'è perché aprendo le linee, aprendo la discussione, gli interventi, il rispetto è, come dire, è insito in questa tecnica. Cioè, le persone parlano, dicono, ma io non sto zitto, capito? Cioè, non... Ma non c'è, ma lei può dissentire. Ho capito, ma anche in maniera rude qualche volta. Anche in maniera rude, anche in maniera rude, ruvida. E questo è il punto. C'è il traffico, resti con me, Giorgio, resti con me, c'è il traffico. Siamo qui 20:22 800 24 00 24. Ancora Giorgio dalla provincia di Ascoli, se voleva concludere. Giorgio. Ma niente, vi ringrazio per dare questo spazio, però ogni tanto gli spazi servono, sembrano tanto una dichiarazione di permesso di democrazia, che c'è tanta democrazia, che tutti possiamo parlare, però poi possono anche, a seconda di come vengono condotti questi spazi, sembrare una propaganda che... in qualche modo. La propaganda, qui non esiste propaganda. Si fa in modo, vabbè, più insomma, o meno occulto. Vabbè, ma è vero che lei è allineato sulle posizioni del Berlusconi, in questo caso dei ragazzi che dei centri sociali, sì, devono andare a studiare e basta. Sì, ma infatti sono allineatissimo, Giorgio. Non sempre, alle volte no, però in questo caso sì. Meno male. Occulto, beh, occulto si può dire, tranne che occulto, però. Giorgio, la ringrazio. Occulto, sì. La ringrazio. Grazie a lei. Grazie. Giuseppe da Cesena, buonasera. Vabbè, Giuseppe, dica. Pronto? Buonasera Cugelli. Senta, io mi sono sempre fatto questa domanda, sì, e mi sorge spontanea. Io sono, diciamo, 15 anni che seguo la politica, io ho quasi 40 anni. Non ho mai capito una cosa, che ancora adesso io sono un cittadino semplice come tante persone, insomma, che deve decidere nell'andare a votare, quale votare e chi votare. Ma la domanda che mi sorge sempre spontanea è dire: ma come si fa a valutare la competenza di chi ti governa? Perché io vedo che i politici, quelli che comunque sono al governo, al Senato, al Parlamento, la Camera, insomma, sono tutte persone che sono molto brave a vendersi come politicanti, nel senso che sembrano più degli agenti pubblicitari che dei politici, e poi non riesco neanche a valutarli, non riesco a valutare quanto veramente queste persone sono qualificate per stare nel posto dove stanno. Allora io, siccome faccio anche questa premessa, sono 15 anni che non voto, perché non mi fido praticamente di queste persone che vanno al governo, sia di destra che di sinistra, nonostante che io vengo da una famiglia che sono tutti di sinistra, però non mi fido né da una parte né dall'altra. Allora io le chiedo a lei come fa a valutare se è un politico e competente o meno nel posto? Perché io vedo anche... Sì, ma il problema è che di un politico non è che deve essere valutato, almeno secondo me, la competenza. Perché uno può essere anche una persona non particolarmente preparata. Cioè, io non credo, per esempio, che personaggi politici che hanno un grande carisma debbano per forza necessariamente essere, non so, dei tecnici, degli ingegneri o altre cose. No, cioè, è importante avere delle idee, avere uno staff poi adeguato che ti mette in pratica le tue idee e tutto questo. No, per cui la preparazione di un politico, il politico deve essere efficiente, deve proporre cose intelligenti, deve cercare di cambiare la società quando è necessario cambiarla. Tutto questo, per cui ci vuole un grande staff, ci vuole una, certamente dietro un minimo di preparazione, ma questo va da sé, insomma, no? Anche se ci sono casi di politici che non hanno magari la laurea o che hanno studiato poco, comunque. Io il problema è che dico di avere idee intelligenti, d'accordo, no? Però io molte volte vedo, adesso senza fare nomi perché poi sembra che è offensivo per uno o per l'altro, insomma, di politici, no? Però vedo delle persone, come anche nell'inchiesta scandalo che ha fatto le Iene, dove gli fanno delle domande proprio anche di cultura generica, questi non sanno neanche. Vabbè, ma quello... Ah, vabbè, no, non è quello, però io mi chiedo da una persona che anche, cioè, è una domanda che mi sorge spontanea, quello di dire: questi non sanno neanche dov'è l'Austria, come potranno fare delle leggi che per 60 milioni di persone. Sì, però questo, Giuseppe, non è che il metro di valutazione, ci possiamo giocare sopra, ridere sopra, non è che il metro di valutazione di un politico è sapere, non mi ricordo nemmeno le domande delle Iene. Ho capito, Giuseppe, cioè non ci possiamo giocare, possiamo ridere, tutto, possiamo stupirci. Dice, com'è possibile, com'era David quella... Ma lì c'era quella cosa divertente, per cui ad esempio se un membro della commissione finanze della Camera non sa cos'è la Consob, ad esempio, sì, quello è grave, preoccupare. Sì, quello sì, ma certo. Però certo, in generale tuttologi non lo siamo neanche noi, quindi non è che se a me mi fanno fare un programma come Quark, non so neanche da che parte cominciare, perché io di scienza non conosco niente. Per cui è chiaro che il tema delle competenze un po' esiste, però ci sono stati dei grandi statisti che, come tu hai ricordato, per esempio, non erano manco laureati, eppure avevano una visione del paese. Certo che se uno fa parte della commissione estera della Camera e pensa che il Darfur sia un medicinale da prendere prima o dopo i passi, è meglio che cambi commissione, insomma. È meglio, esatto, è meglio che vada da un'altra parte, questo sicuro. Però tutto qui, Giuseppe, insomma, non credo. Non so se lei ha visto adesso, c'è una vignetta che stava facendo già su internet, no? Gira su Facebook, comunque te la mandano via email, dove c'è praticamente il laureato, da una parte la foto del laureato che lavora al call center, è il figlio di Bossi, e dall'altra parte che c'è scritto laureato al call center guadagna 600 euro al mese, il figlio di Bossi, perché il figlio di Bossi guadagna 12.000 euro al mese. Allora, cioè, io adesso non è che lo faccio per entrare in polemica, sì, però lei capisce che una persona, io come posso dire, cioè, anche da un livello culturale, come posso dire che quella persona è competente per entrare in politica? Vero, perché lui l'hanno votato con delle preferenze, quindi anche qui c'è una questione vera, no? L'hanno votato, cioè c'erano le preferenze in regione. C'erano le preferenze alla regione, l'hanno votato, certo, sicuramente è stato, coglioni, però è stato favorito per il fatto, adesso 20.000 coglioni, che vuol dire? 20.000? No, appunto, dici con paradosso, dicevo, cioè non è che si può dire che queste 20.000 persone che hanno scritto, o 12.000 che hanno messo la preferenza a Renzo Bossi, sono da considerare dei coglioni. Non mi sembra, c'è, cioè, un paragone molto affascinante il fatto che un laureato che lavora a un consente non può essere considerato così, non è così, cioè, che guadagna 1.200 invece Bossi ne guadagna 12.000. Bossi sono elettori che hanno scritto Bossi il suo figlio, nome, e senza il fucile puntato, tra l'altro, per cui, cioè, Giuseppe, capisco il paragone, ma insomma si potrebbe fare facile demagogia su una cosa di questo tipo. Allora la soluzione potrebbe essere semplicemente pagare di meno i consiglieri regionali, insomma, se uno proprio deve ragionare così. No, il paradosso, sì, il paradosso è quello di far politica solo le persone intelligenti, solo con un test d'ingresso, mi sembra una stupidaggine, no? No, ma io dicevo, di voto solo i laureati, come si fa? No, Crociani, io volevo sapere se da lei, volevo chiedere questo, l'ultima sì, cosa che volevo capire. Io volevo sapere, ma non è possibile avere un governo di gente tecnica? Perché io capisco che il politico... No, ma non capisco, ma che significa, Giuseppe, un governo di gente tecnica? No, significa che io vedo delle persone, diciamo anche veramente persone che le sento parlare e mi trasmettono fiducia in televisione, dei docenti universitari, che quando parlano di finanza o quando parlano di risolvere determinati problemi, me la mettono giù chiaramente che il popolo possa capire, la gente possa capire quello che ho capito, dicendo. Ma la politica non è la politica, queste persone qua potrebbero tranquillamente fare i consiglieri, che in alcuni casi succede ed è successo, sì, sono d'accordo, ma dei ministri. La politica, c'è un aspetto che non ha niente a che fare col tecnicismo, un aspetto che ha a che fare con la capacità di sedurre, con la parola, con il consenso, sono tutte cose che sono proprie della politica, e soprattutto della democrazia, in particolare di quella occidentale, da cui non si può prescindere. Professor Marco Bianchi, il grande professor, esatto, Bianchi, che era un grande esperto di mercato del lavoro, ma probabilmente nessuno non aveva non avrebbe mai avuto la possibilità di fare ministro. Sì, però vede, io le faccio un esempio. Cioè, in politica questo si può fare, però se lei lo fa ad esempio in un'azienda privata questo non si può ma fare. Ma quella è un'altra, capito, cosa. Infatti no, non è un'altra cosa. Come no? È un'altra cosa, le sto dicendo che la politica è un'altra cosa. La politica è un'altra cosa. Però le tenga conto che la politica, allora, amministra il patrimonio degli italiani. Ho capito, ma ci sono per quello, per amministrarlo bene, poi ci sono i tecnici, in teoria. Poi questo in teoria, ha detto bene. E vabbè, in teoria, certo, poi ripeto, la politica qualche volta è spesa del denaro pubblico anche in modo eccessivo. Per cui non si verifica l'aspetto virtuoso che lei immagina e che lei vorrebbe. Abbiamo la borsa, torniamo subito. Eccoci da Sky TG24, Paolo Villaggio che parla di Monicelli. Duro come sempre. Cosa vuol dire? Vedrà che poi. Quanto. Che succede? E allora il primario gli ha detto: beh, sa, lei ha 95 anni, lui non gli ha lasciato prendere le distanze, ha detto grazie, arrivederci, basta. E ha deciso che la sua vita in quel momento non aveva più nessun significato. Lui era contrario a eutanasie spettacolari, quelle cose lì. Infatti non ha detto nulla a nessuno, non ha lasciato un biglietto e ha deciso che la sua vita poteva decidere lui il momento. Questo era Villaggio. Daniela da Ravenna, buonasera. Volevo entrare un attimo più nel merito dei motivi del dissenso, se mi è consentito, degli Prego. Studenti. Il primo, vorrei ricordare il taglio del 90% dei fondi riguardanti le borse di studio. Mm. E quindi questo è evidente come il grosso taglio fatto già dalla finanziaria sul diritto allo studio. Sì. E queste sono misure che chiaramente vanno a discapito, ed è chiaro per tutti, dei ragazzi meno abbienti. Questo mi sembra chiaro. Poi? L'altra cosa era il fatto di citare sempre, diciamo, istituti che hanno avuto una gestione, tipo quello di Siena, a fronte invece di moltissime università virtuose che stanno lavorando bene e di poli anche decentrati che hanno portato il diritto allo studio per gli studenti anche in province minori e che sono ben amministrati e che vengono messi a rischio dalla riforma. Oltre a questo, tutti i servizi per gli studenti, dalle allo studio, all'Erasmus, che sono già stati tagliati, e quindi gli studenti non hanno aule per poter studiare, non ci sono servizi. Questa mi pare una generalizzazione, non ci sono aule per studiare. Ci saranno dei casi, ci saranno dei casi. Anche perché credo che sia un grosso insulto ai ragazzi dire che quelli che, diciamo, stanno manifestando per queste cose siano sostanzialmente i fannulloni. Mi sembra un metodo soltanto per creare lo scontro, quindi non si vuole neanche provare a intavolare un discorso. Comunque le voglio fare presente che la questione delle borse di studio ha a che fare con la finanziaria e non con la legge di riforma dell'università. Infatti l'ho prima detto io, già la finanziaria aveva fatto questo taglio. Ho capito, ma la legge di riforma sarà pure come dice lei, le borse di studio, quello che lei dice, anche se poi si possono fare molti... Quello che io dico, questa è la verità, sì, Daniela, non è che lo dico io, no, cioè, Daniela, non sto contestando i tagli alle borse di studio, anche se poi molte cose, come sappiamo, possono essere risparmiate all'interno dell'università. Il discorso sarebbe lungo sulle risorse che si possono risparmiare all'interno degli atenei, ma non è questo il punto. Certamente. Dicendo semplicemente che la questione delle borse di studio che lei ci sta dicendo, a parte che non giustifico l'occupazione delle autostrade o cose di questo tipo, ma è un aspetto che non ha niente a che fare con il disegno di legge sull'università. Nulla. No, ma è per capire, perché sennò sembra che, diciamo, siccome poi ci sono stati tagli alle borse di studio da parte di tantissimi governi, allora uno dovrebbe fare, diciamo, dovrebbe essere una manifestazione continua, insomma, no? No, ma la gente ha manifestato. Vorrei dire un'altra cosa, la ricerca. Sì. Allora, i ricercatori, lei sa che con questa riforma sono stati praticamente azzerati. Non è vero. È così. E comunque, poi le voglio dire azzerati, che vuol dire azzerati? Gli hanno tagliato la testa, che hanno fatto? Diciamo che siamo l'unico Stato europeo, e nella discussione in Parlamento di oggi pomeriggio, non so se lei ha avuto modo di sentirla, questa cosa è emersa con grande chiarezza, è l'unico il nostro di Stato che non investe nella cultura. E questo è... Che vuol dire la cultura, secondo lei? La cultura in senso generale, l'abbiamo visto, in senso non solo generale, con questa riforma. Generale. Questo che le ho detto prima sono già elementi molto, molto interessanti, e le ricordo che stiamo ancora pagando, e io ho un figlio che va al liceo, i primi effetti dei primi interventi fatti da Gelmini. Quindi se le persone manifestano contro questa riforma e quindi contro il governo è perché lo ritengono inadeguato Benissimo. Ad amministrare la scuola, e quindi è una parte, chiaramente non sono tutti, è una parte degli studenti che manifesta contro un governo inadeguato. Lei non mi ha fatto una critica a questo disegno di legge sull'università. Il disegno di legge io le ho fatto alcune. Non mi ha fatto nessuna osservazione sul merito. Sta parlando in generale della politica dell'istruzione del governo. Una riforma universitaria che non investe nella ricerca. Ma che vuol dire in generale non investe sulla ricerca? Ma è una cosa non mette fondi nella ricerca. Vabbè. Che cosa vuol dire? Glielo devo fare il disegno, mi Va sembra bene. Chiaro? Sì, ha sì, azzerato sì, la ricerca. Ecco, si ha azzerato la ricerca. E non solo, ha detto anche una grandissima... c'è un grandissimo inganno sotto, che il discorso della premialità è una grandissima bugia per ora, perché non ha copertura finanziaria. Ma ho sentito questa critica. Lo dico io, Cruciani. No, lo dicono un sacco di politici, lo dicono un sacco di studiosi, per carità. Che effettivamente si riesca a non approvare questa riforma, certo, e che un nuovo governo metta in quel posto un ministro competente. Un ministro competente. D'accordo. Grazie a lei. Antonio Borghesi, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, grazie. Ha votato? Sì. Ho votato, sì, abbiamo chiuso qualche minuto fa. Antonio Borghesi, Italia dei Valori. L'emendamento che avete presentato, che era piuttosto interessante, quello sulla parentopoli, sì, no? È passato, no, naturalmente? No, è stato, guardi, è stato svuotato, le notti non hanno portato consiglio da venerdì ad oggi, perché è stato svuotato di contenuto da un subemendamento presentato dalla maggioranza e dal governo, che praticamente ne vanificava i contenuti. Perché noi avevamo detto per nessuna assunzione contare, nessuna assunzione di parenti all'interno della stessa università, esattamente, che voleva dire semplicemente che uno doveva andare, se era così bravo doveva andare a trovare un'altra università. Però lei sa benissimo, Borghesi, che poi alla fine si mettevano d'accordo e facevano entrare i figli in un'altra università. Però sa, intanto dovevano mettere in essere una pratica che non è mica tanto semplice. Il governo gliel'ha semplificata del tutto, gli ha risolto il problema, perché ha detto basta che non sia parente nello stesso dipartimento, ma chi vive in università sa bene che per uscire e entrare da un dipartimento basta una letterina, per cui io faccio... Ma questa è passata questa è passata? Prego? Questa è passata, questa... È passata così, la stanno sbandierando come emendamento anti-baronie, ma in realtà... È uno svuotamento del nostro, che avrebbe realmente dato un colpo duro, perché costringeva, sì, si potevano fare ancora delle pratiche, ma erano assai complicate, insomma. Capito, Parenzo Borghesi e tutta l'Italia dei Valori aveva presentato un emendamento alla riforma universitaria che prevedeva, che naturalmente non era una risolutiva come cosa, perché però interessante, che impediva la questione della parentopoli, o comunque poteva impedire nel futuro il fatto che figli, parenti, eccetera, non le mogli però, Borghesi. Effettivamente, devo dire, di quello prendo atto, non abbiamo detto affini, per cui effettivamente in che non senso era non completo, detto affini? Però non si può arrivare anche alle amanti, le amanti non si possono scrivere. No, passavano le mogli e i figli, diciamo. No, nel senso che l'emendamento prevedeva che i discendenti... Certo. I parenti più stretti, certo, diciamo, fino a quanto grado? Al terzo? Fino al terzo non potessero essere assunti all'interno della stessa università. Questo valeva per il futuro. Come professori stiamo. Però sa anche qui, Borghesi, qui come però professore. Vedete, tutto questo sarebbe inutile se si fosse approvato molto più semplicemente l'abolizione del valore legale del titolo di studio. Sì, perché certo, in quel caso ci sarebbe stata una naturale concorrenza tra atenei, e gli atenei si sarebbero assunti la responsabilità di assumere chi gli pare e rendere l'ateneo davvero concorrenziale. Sì, non c'è dubbio che questo. Ma io invece non credo troppo a quella soluzione. Una soluzione vera, che era quella che noi proponevamo di Corredo, era quello che il concorso tornasse ad essere un concorso nazionale con numero di vincitori pari al numero dei posti banditi, perché questa lista nazionale che adesso vogliono fare è una lista aperta, per cui si presterà sicuramente al fatto che tutti o quasi tutti ci entreranno, e dopo l'assunzione viene in sede locale, dove se ci fosse stato il nostro emendamento qualche tampone ci poteva o qualche problema ci poteva essere. Lei dice che è un trucco questa cosa qua della lista, così sarà dato libero sfogo alle potenze baronali che sono presenti, alle famiglie presenti nella nostra accademia. Borghesi, è alla seconda battaglia perduta in pochi mesi, no, Parenzo? Perché è quello. È un grande perdente, grande combattente, grande perdente. Grande combattente, e ha perso di recente anche, quello era più prevedibile, diciamo, Borghesi, la questione del vitalizio dei parlamentari. Ne parleremo tra un attimo dopo il traffico, ma sta perdendo anche sulla vicenda De Magistris, che noi abbiamo incontrato a Strasburgo, perché Borghesi è quello che si è battuto dicendo che, siccome c'è un regolamento all'interno dell'Italia dei Valori che prevede la sospensione in caso di rinvio a giudizio, come abbiamo sentito la settimana scorsa da Strasburgo, De Magistris non ne vuole sapere, invece Borghesi voleva la sospensione dello stesso De Magistris, ma ne parliamo tra un attimo dopo il traffico. Eccoci, intanto Berlusconi dice un colpo mortale a Parentopoli, la riforma dell'università. Borghesi, sta esagerando, Berlusconi? No, è veramente una mistificazione, una dichiarazione. Perché lei dice una mistificazione? Beh, lei dell'Italia dei Valori chiaramente si oppone. No, però insomma credo di aver spiegato, e credo che sia abbastanza chiara la differenza tra il caso di uno che stava dentro l'università come dipendenze in quanto professore e il rapportarsi a un dipartimento che è un'entità nella quale oggi ci sono, domani possono non esserci più con una semplice lettera. Ma Berlusconi penso che si faccia riferimento anche al limite del mandato dei rettori e ad altre cose, sì, no? Sì, non carità. Viene colpita Parentopoli secondo lei? No, con questa riforma, nemmeno Scalfita, nemmeno il collettivo è un fatto così rilevante, è chiaro che mediaticamente anche lui fa riferimento a questo, insomma. Non viene nemmeno Scalfita la possibilità nel futuro. Certo, credo che il fatto che i rettori abbiano un limite dei mandati sia sacrosanto, dovrebbe esserci anche per i parlamentari, ma questa sarà una futura battaglia. Battaglia, speriamo, però anche qui. Io non sono troppo d'accordo sul limite dei mandati dei parlamentari. I temi che affronta questa riforma sono giusti come argomenti. Il problema è che le soluzioni sono quasi sempre o peggiorative, come in questo caso del reclutamento, o comunque del tutto insufficienti, perché è chiaro Lei mi ha detto già sul rettore, è una parte del provvedimento che ci può stare. Io per carità sono sempre pronto a discutere delle cose, però... per esempio noi ci siamo cimentati e abbiamo fatto delle proposte alternative anche sulla governance. Noi abbiamo detto va separata la gestione dalla testa, dalla strategia, per cui noi dicevamo che ci dovesse essere un direttore generale scelto con un bando europeo e che avesse l'autonomia poi di attuare le decisioni che venivano prese da un senato però accademico. Vede qual è la questione borghese, senza entrare nel tecnicismo. Lei dice ci sono alcune cose positive, no? Oggi in prima pagina su Corriere della Sera Francesco Giavazzi, che certamente non è un difensore del governo, dice che è una riforma da difendere, che ha tanti limiti naturalmente, tante cose da migliorare, è una riforma da difendere. A me pare di aver sentito oggi nell'intervento del suo leader politico, per carità, poi in Parlamento è giusto avere certi toni, di sostenere insomma questa è una riforma che dopo aver colpito colpisce anche il diritto allo studio degli studenti, il futuro degli studenti, insomma, non mi pare dalle sue parole di capire questo, però onorevole Borghesi, cioè, dalle sue parole non c'è questo giudizio così drammatico sulla riforma universitaria. Dico che i temi sono quelli, i nodi sono quelli, ma voglio dire c'è stata una proliferazione di sedi per motivi clientelari. Questo è uno... Non dice una parola. Noi davamo una delega al governo ad una revisione di tutte queste sedi e a un loro accorpamento obbligato, perché altrimenti qualcuna bisogna pure chiuderne. Ma questo è il governo, è quello che vuole fare, l'ha dichiarato mille volte. Ma non è vero, perché è una potestà, una facoltà delle singole università di accorparsi. Non c'è nessun progetto del governo per un accorpamento, e noi dicevamo invece ci vuole un disegno anche Senta, su questo piano. Ma lei lo scontro tra Granata e Costa l'ha visto? Dove? Alla Camera. Dove? In che senso? No, perché c'è stato uno scontro verbale molto forte tra Granata e Costa, addirittura i due sono quasi venuti alle mani, comunque sono stati separati. Confesso che non ho assistito. Senta, perché lei voleva abolire il vitalizio tout court? Quella è stata una mossa un po'... io sono perché? A favore per abolizione... No, in realtà io sono a favore, però abolirlo tout court... Ma va spiegata meglio. Io ho detto... Facciamo per i parlamentari la stessa cosa che c'è per tutti i lavoratori. Noi ogni mese abbiamo una trattenuta, quella trattenuta sia versata all'ente di appartenenza del deputato, e quando lui per i fatti suoi dopo i 40 anni complessivi della sua vita lavorativa va in pensione, quei contributi verranno conteggiati e gli permetteranno di avere una pensione leggermente forse più alta. Quindi questo era il senso, perché così come è concepito oggi porta a carico dei contribuenti tutti gli anni tra Camera e Senato qualcosa come 230-250 milioni di euro. Qual è lo scandalo? Ma quello lei ha ragione. Lo scandalo maggiore qual è? Quelli che hanno fatto... io ho letto delle cose pazzesche. C'è un avvocato che si chiama Giovanni Valcavi. Sì. Quanti anni ha oggi? Adesso lei mi fa una domanda. Proclamato senatore il 27 marzo del 91, si è dimesso il 18 giugno dello stesso anno e dall'aprile del 92, probabilmente perché ha fatto 60 anni o 65, adesso non so sotto che normativa rientra, gode di un vitalizio di 3.108 euro al mese. Sì, perché in passato poi c'erano delle cose scandalose. C'è un banchiere che non ha mai messo piede dentro la camera perché è stato proclamato, purtroppo per lui è morto 15 giorni dopo e non è riuscito neanche a mettere in piedi la camera, e la vedova prende il vitalizio come vedova. Vabbè, insomma, la invito un'altra volta per parlare nel dettaglio di questa questione delle pensioni d'oro, vitalizio, Borghesi, grazie. Prego. 20, 52, 40. Lei che, di che tendenza è? De Magistris o Di Pietro, Borghesi? Ma no, lasci io vabbè, ormai la quello che dovevo dire. No, quello che dovevo dire l'ho già detto, per cui non vorrei aggiungere altro. Io sono nato insieme a Di Pietro e morirà insieme a Di Pietro. Il partito l'ho costruito insieme a lui, quindi non c'è dubbio la mia vicinanza, ma io non ho nulla contro De Magistris, che è una persona che stimo. Però si deve sospendere. È solo un fatto di regole, se le regole ci sono valgono per tutti. Insomma. Lui dice che sono sbagliate De Magistris. Se sono sbagliate le cambiamo, io sono anche d'accordo, però le cambiamo e le facciamo valere per tutti. Grazie Borghesi. Prego. Augusta, provincia di Brescia, per concludere, buonasera. Buonasera. Sono un po' emozionata perché è la prima volta. Però a 30 secondi, Augusta, la ringrazio. Sì, dunque, io mi rifacevo al quel signore che ha chiamato prima dicendo che i politici devono essere competenti. Lei ha detto di no. No, io non ho detto, ho detto che possono anche non essere, importante che abbiano uno staff importante. Per me comunque è una cosa principale, perché c'è un proverbio che dice che prima di, tra virgolette, comandare, bisogna anche saper fare, perché essere in campo e cercare, a volte fanno di quelle leggi che sono difficili da gestire, da applicare, da attuare. Io ho una piccola azienda, sto diventando matta perché la burocrazia... Non c'è dubbio. Immagino. La burocrazia, e poi indubbiamente questo non sono tutti né avvocati né ingegneri, c'è gente anche semplice che ha voglia di lavorare. Ma e io devo chiudere, Augusta, la ringrazio, ci sentiamo domani anche con lei. Caro Parenzo, con Roma ormai libera, puoi passare una buona serata. Buona serata a tutti voi, domani 18:30. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare. La Zanzara.